Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it. Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascara, non ti stai lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Gioia. Come ha vinto? Io me ne vado alle Canarie, vaffanculo, non ci voglio stare più in questa città di merda. E quelli come Parenzo dovrebbero andare tutti in Siberia. E grazie alla gente come questo cretino che c'è a fianco, che l'Italia sta andando sempre di più nella melma. Non ha il diritto a esistere, perché è cretino. Parenzo, curalo Parenzo. Insomma, curatevi uno con l'altro che avete bisogno di cure voi due. Ciao. Amici miei, la prima cosa che voglio dire stasera, lo dico anche a te Parenzo, è vive la France, viva la Francia, perché caro amico bisogna dire la verità, almeno lì c'è un governo che decide, un governo che magari un governo di sinistra con i coglioni, devo dire la verità, perché se ne sbattono di Schengen, se ne sbattono di Schengen, se ne sbattono della solidarietà. Fanno i cazzi loro. Cioè decidono una cosa. Da qui gli immigrati non passano. Porcheria. Da qui non passano. Porcheria. Ma che vuol dire la porcheria? Un premier. Decidono. Decidono. Ma veramente quello è il presidente, non il premier. Presidente Hollande, quello che ha incontrato Renzi, che ha coinvolto negli scandali sessuali. E che per c'entra? Coprire gli scandali sessuali e guadagnare un po' di popolarità, dice no agli immigrati. Per me, anche se di sinistra, è un pirla. Allora io invece dico vive la France, perché un governo che decide, che se ne sbatte di tutte queste fumisterie, i trattati, qui passano, non possono passare, loro dicono abbiamo deciso che non passano questi signori, si rigestisca l'Italia. Ma qual è il piano B di Renzi? Non, cioè, non se c'è. L'Europa non collabora, non qual è? Facciamo da soli? Che vuol dire facciamo da soli? Che vuol dire? Abbiamo salvato centinaia e centinaia di vite nel Mediterraneo, continueremo a farlo, ma contemporaneamente mi sembra ovvio, naturale, doveroso che si trovino delle soluzioni all'altezza della storia dell'Europa. Se così non sarà, noi semplicemente faremo da soli. Siamo in condizioni di affrontare questo problema, questo è il nostro piano B come paese, come Italia, perché siamo un grande paese. Vabbè, poi prima o poi ci spiegherà, eh? Prima o poi Renzi ci spiegherà qual è il piano B, forse dare i permessi a questi qua in modo che possano passare tranquillamente, ma insomma si metterebbe contro un po' di paesi europei. Cosa abbiamo visto nel weekend di particolarmente significativo? Ho visto un sindaco di Milano piuttosto nervoso, signor Pisapia, rispondere a una giornalista di Sky che chiedeva scusi ma dove li mettete tutti questi immigrati che sono arrivati alla stazione? E lui ha risposto come un leghista qualsiasi, no? Come uno che dice no ma metteteli a casa tua. Già in stazione centrale non c'è più degrado, quindi abbiamo fatto un grande passo avanti. Mi sembra, e vorrei che filmaste, la stazione ormai completamente rinnovata dal punto di vista della dignità per chi arriva. Sì, sindaco, però il problema è che sono spostato di pochi metri. Nel lato c'è una situazione di degrado terribile, bambini che dormono a terra stamattina alle 7 siamo arrivati. E allora li ospita lei a Sky? No, non è e poi magari la sua. Allora, stiamo lavorando. Sì, la differenza è questa, che noi stiamo lavorando. Ma le stavo semplicemente c'è chi dicendo. Parla, cioè, vedi che la differenza è questa. C'è chi parla e c'è chi opera. Ma questo è abbastanza normale, Pisapia. Questa è pagata per parlare, peraltro. Sì, no, lei sì, ma su parlata... questo ha ragione, però. Cosa? È il nervosismo di un sindaco che si trova in prima fila. Ma lascia perdere il nervosismo linea. Di un sindaco. Ha beh, risposto, sì, ha risposto di quelli, male. Di quelli ma che vuol dire il sindaco deve fare il suo però, mestiere? Chi mette le mani, ma chi mette le mani nei problemi ha diritto anche di incazzarsi, no? Chi io invece blattera come i Salvini, ma che i bubù, c'entra in questo caso? Che non fanno niente se non aizzare odio. Ma di che stai parlando? Quelli qui? Devono, ma questa che è una persona che è in prima linea, che avrà sbagliato, perché sicuramente ha lasciato solo lui e il prefetto, sono le uniche due persone che stanno lì giorno e notte per risolvere un problema. Quando scusa, stai spostando altri... la questione, no, stai, no, stai spostando stai facendo il comizio stai facendo ma un tuo comizio politico contro la Lega, che non c'entra niente. Qui c'è un sindaco che ha risposto per definizione. Lascia perdere, un sindaco che c'entra. Ha risposto a una giornalista in maniera terribile, terribile. Giustamente, ma giustamente cosa? Portali a Sky, ma che c'entra Sky? E questa gli dice guarda c'è un ma no, ma la giornalista ha fatto il suo lavoro, va benissimo. Io capisco il nervosismo. Capisco, di ma perché vacci pure a letto insieme con Pisapia, allora dato che ci sei, no? Io ho altri gusti. Appunto. Carità, poi, altri gusti. Dopo la vittoria a Venezia, Brunetta, che è veneziano e che ha perso peraltro un'elezione è a Venezia, è scappato. Casson è scappato con tutti i comunisti morti, scappati, finiti nel Canal Grande, li abbiamo buttati, finiti, morti, scappati, finita, è un'era, è chiuso tutto, vaffanculo, e io sono Renato e ho vinto come sindaco. No, veramente non hai vinto, comunque hai vinto un altro. Cretino, è come avesse Brugnano, Brunetta, BB, abbiamo vinto il comune di Venezia, che ormai i comunisti Brugnaro, nel Canal Grande Brugnaro, se decido come si chiama. Ho fatto il ministro. Comunque posso decidere. Sì, vabbè, ho capito che è cretino. Cretino, cretino. Renzi abbiamo non vinto. C'è più. Dice Renzi non c'è più. Morto, finito. Intanto noi stiamo vincendo. Abbiamo vinto a Venezia, abbiamo vinto nei comuni, abbiamo vinto a Rovigo, abbiamo vinto a Portogruaro, abbiamo vinto, udite, udite, ad Arezzo. Vuol dire che la spinta propulsiva di Renzi è finita. Renzi come Presidente del Consiglio, uomo solo al comando, non c'è più. Qui 800 24 00 24, lunedì Salviniani, come ogni lunedì Matteo Salvini con noi, buonasera. Buonasera, un abbraccio da una bellissima Milano. Dove sei? Milano? Ah, Milano, Milano. Vai a Milano, dare una mano lì, vai a dare una mano in stazione ai guarda, io, a quelli del comune. Io esprimo la massima stima e il massimo rispetto per i cittadini che portano appunto che portano qualche genere di conforto ai clandestini che bivaccano lì e fanno ai profughi, quelli ai quelli sono profughi, profughi, un profughi quelli sono profughi, sono clandestini, non esistono. Anche se la tua amica Boldrini ha cercato non di togliere amica. Dal vocabolario questo termine la, non è la mia amica italiana, ecco, prevede che siano ai profughi, profughi. Il governo deve risolvere i problemi, non può far conto sulla generosità del singolo, anche perché la stazione di Milano in queste condizioni non me la ricordo in decenni di storia, purtroppo. Restiamo sulla definizione. Quindi porterai anche tu delle cose lì. Del vabbè, pane, dei generi di prima necessità. Adesso, ma guarda, innanzitutto non vengo a dirlo a te, poi se, ah, se ma lo puoi scegliere... dire. Tra le ruspe, sono, dice porterò anche sono, il pane, è un bel segnale. No, perché uno è obbligato a portare qualcosa? Non è obbligato, io sto chiedendo. Mica è obbligato. Io sto sono chiedendo. Donatore di sangue da quando ho 18 anni. Il donatore del sangue è anonimo, quindi il mio sangue può andare un roma, un bianco, un no, ma che c'entra il sangue? Verde. Qui serve da mangiare, servono vestiti. Ma sì, adesso qualcuno porterà, farà le camicie verdi, organizzeranno una raccolta. Guarda, no? Oggi ho risposto alle mail di diversi italiani che dormono in mezzo a una strada. E se, vabbè, ma e lo puoi dire, non perdi voti se dici. Non perdi voti se dici che le camicie verdi porteranno del cibo. Il fatto che non me ne vanterei in diretta, ma se no, devo scegliere il fare il clandestino in stazione centrale o il brianzolo che dorme in macchina da qualche mese, aiuto il brianzolo che dorme in macchina. Voglio chiedere una cosa a Salvini, ed è questa, ma la questione è, si può dire, Salvini può dire oggi vive la France, cioè ti senti un po' più francese? I francesi fanno bene, i francesi fanno bene. Io stasera sarò ospite di Lili Gruber, sì, parlando non solo di immigrazione ma anche di, sì, di scuola, di tasse, di famiglia, e ho la maglietta che mi ha regalato a Ventimiglia. Che perché sarebbe? I francesi difendono i loro confini, però ho scritto Ventimiglia proprio. Ma chi è? Quelli di identità? Quelli di No, i cittadini di Ventimiglia. Ho trovato una signora che mi ha detto: sono scesa in cantina settimana scorsa e ho trovato due immigrati che dormivano nella mia cantina e ne hanno fatte di tutti i colori. Non è normale, non è normale. Cioè, okay, che fine devono fare? Ma infatti io dico che i francesi fanno bene, gli svizzeri fanno bene, gli austriaci fanno bene, sono i politici italiani che non fanno bene. E che fine devono fare quelli là che sono sugli scogli a Ventimiglia o che sono al confine? Possono pure rimanerci sugli scogli, per quanto mi riguarda. Cioè, nel senso, come quelli che stanno protestando in Sardegna perché non gli va bene l'agriturismo che è stato loro assegnato, possono stare su quell'autobus per sei mesi, per quanto mi riguarda. E per cui la Francia fa benissimo, fa benissimo, dovremmo fare così anche noi, cioè assolutamente sì. Cioè chiudere, per esempio, non so, fosse per te sospenderesti subito Schengen? È sei mesi che lo chiediamo, anche perché gli altri lo stanno già sospendendo Schengen, controllando alle frontiere chi entra e chi esce. Ho visto che Matteo Renzi si è accorto che l'Europa forse ci sta prendendo in giro e ha preso la Francia sicuramente ci prende in giro. È bello per gli ascoltatori, io ricordo che in Francia c'è il governo alla sinistra, non c'è la Lega brutta e cattiva o la Le Pen, quindi in Francia c'è una sinistra mediamente intelligente e in Italia abbiamo la sinistra più fessa d'Europa. No, bisogna dire la verità, Parenzo, questo è vero. Adesso tu potrai dire contestare il provvedimento della Francia, dimmi. No, che vuoi fare, Brunetta? Dimmi. Vinto. Renzi è scappato in Francia, cretino. Però devo dire, tu puoi contestare anche quello che ha deciso la Francia, però è una decisione. Cioè è una decisione, cioè la Francia è una decisione, decide. Da qui non si passa. Secondo me Hollande, socialista, tutto quello che vuoi, ha preso una decisione idiota, cretina, per coprire i suoi scandali sessuali, peraltro, ma per guadagnare un po' di popolarità. Ma non è vero, ma è una decisione di un paese sovrano che decide da qui, sì, noi, ma va benissimo, da qui non posso avere questa opinione. Siccome chiaramente dire no ai clandestini porta consenso, ma e Hollande l'ha detto? Magari ha fatto no, un disastro, ma come no? Magari certo. In Francia no. Hollande era ai minimi storici, ha fatto pure i suoi comodi sessuali di cui non me ne frega niente, ma che c'entra, volte che lo ripeti, e ha coperto con i migranti le sue porcherie sessuali, che può fare benissimo. Ma dai, questa roba qua. Così è andata, secondo Sabini me. Secondo Parenzo copre i suoi scandali. Beh, evidente. Ma che ne so, io non sto con... Senti, Cecilia Strada ha detto una cosa, bravo, ha detto che non ospita un profugo a casa, perché pare che glielo chiedano su Facebook, su internet o qualcuno. Io a casa tua. Non ospito un profugo a casa perché paga le tasse e vorrebbe che le tasse fossero spese, bravo, diciamo, per ha la solidarietà. Ha perfettamente ragione. Ha ragione? Mi sento Cecilia Strada. Sì. Assolutamente. È il governo che dovrebbe risolvere i problemi. Non è... Se uno poi vuole fare volontariato, vuole ospitare un prof, vuole regalare un paio di scarpe, vuole donare il sangue, sono scelte del libero cittadino. Ma io pretendo che il governo a cui pago le tasse in stazione centrale mi faccia prendere il treno senza pigliare la scabbia, o in stazione Tiburtina a Roma, o andare nei giardinetti di Udine o passeggiare per Torino. Non puoi però lei dice un'altra cosa, e dice anche che le tasse si devono spendere anche per il sistema di accoglienza, per la solidarietà, cioè per i profughi, limitato, per i profughi veri. Il problema è che tutto il resto del mondo dice che il profugo vero va aiutato con dignità, ma quello che non scappa da nessuna guerra ma semplicemente dice ho fame, voglio lavorare, non è un profugo, perché altrimenti in Africa ci stanno 1 miliardo di persone. Se arrivano qua dicendo ho fame, voglio un lavoro, lo diciamo, ospitiamo 1 miliardo di africani che hanno fame e vogliono un lavoro. Il punto è questo, cioè, se uno dice ho fame, per Parenzo chiunque dica ho fame può venire qua. Grazie. Banalizzate, libertà, égalité, banalité. Questa è l'anarchia. L'altra è libertà, égalité, facciamo... No, sì, c'era adesso in questi liberté, giorni con la decisione della Francia, no, ma di modo un'altra cosa, libertà, égalité, vabbè, dopo ve la dico, traffico, e poi torniamo con Salvini. Traffico, veo chi là. La Zanzara. Eccoci qui, la Zanzara, 18:49, lunedì, Salviniani con Matteo Salvini, leader della Lega Nord, certamente contento per i risultati elettorali. A Venezia facciamo un prurito, aspetta un attimo, scusami. Che la scabbia. Dicono che la storia c'è la Salvinite, cioè, no, la scabbia, la Salvinite, cioè, quando parla Salvini c'è la scabbia. Dicono che chi utilizza, come ha fatto Salvini nei giorni scorsi, la vicenda della scabbia, Salvini, fa della demagogia, perché in realtà la scabbia è una cosa che si cura con una pomata andando in farmacia. Ma chi non desidererebbe che suo figlio si portasse a casa un po' di scabbia, dai? Beh, no, no, io non lo so com'è la storia della scabbia. Pare che però... L'ha scritto un medico sul Corriere della Sera ieri, l'altro ieri. È da quarto mondo. C'è il governatore della Toscana Rossi, poi è stato rieletto, quindi i cittadini hanno sempre ragione, che ha detto che sono un razzista etnico. Etnico, sì, razzista etnico. E comunque la scabbia non è mortale. Dico, ah, grazie al cazzo, beh, per fortuna, allora distribuiamo un po' di scabbia. Ma ci sono dei medici che hanno certificato che dalla stazione centrale di Milano dall'inizio dell'anno sono passati 500 malati di scabbia. Non sarà mortale, basterà la pomatina o la pastiglietta. Posso pretendere nel 2015 che non ci sia la scabbia, prendano il treno evitando scabbia o malaria, o sono un allarmista? Ma che, come ha spiegato un infettivologo su Corriere della Sera, sei un allarmista. Perché che ne so, allora possiamo augurare la scabbia, che ne so, a qualcuno? Non la auguro a nessuno. Qualche ben pensante che fa gli articoloni dicendo ma cosa vuoi che sia un po' di scabbia, se la prendesse. Rossi quindi, magari se la prendesse. No, non auguro del male a nessuno, sono dei poveretti quelli che mi danno del razzista. Perché oso dire, ma io ho letto perfino che c'è qualcuno che dice che quel sudamericano che ha preso a colpi di macete un controllore, però insomma gira anche su Facebook la storia che sto controllore sarebbe andato a provocare questi poveri ragazzi. No, quello nessuno, questo è uno stupido, vero, l'ha detto. Tutto vero, ci sono dei malati che la pensano così. Questi sono degli idioti, certo. Sì, e bisogna anche dire che non riusciamo a sgominare queste bande che io continuo a definire delle bande minori, perché sono pienamente d'accordo. La realtà è questo, la mafia, la camorra, l'andrangheta, adesso ci mancavano che non riusciamo a... Sì, saranno anche pericolosi questi qua, per carità, saranno pericolosi, quello che vuoi, ma sono sempre la banda di quattro latinos, ragazzi. Questo deriva dal fatto che viene meno un po' di timore, un po' di paura. Quando lo Stato non incute più paura o timore, uno va in giro col macete. Ma scusami, le frontiere, tu le chiuderesti proprio le frontiere? Questo è il punto. Cioè, faresti dei controlli, dei controlli. Cioè, rimettere le frontiere come prima. Rimettere le frontiere. Dei controlli su chi entra e chi esce, normali. Ma se io voglio entrare in Svizzera, mi fermano e mi chiedono i documenti. Vabbè, rimettere le frontiere. Chiedere chi sei, dove vai, cosa vuoi, cosa fai. Ma a Lampedusa, in Sardegna. Alfano dice che a Venezia siete voi che metti il filo spinato a Lampedusa. Siete voi che vi siete aggregati. Alfano è simpaticissimo. Dai. Dice che siete voi che vi siete aggregati a Venezia. Alfano con gli Ariello sono simpaticissimi, non hanno tantissimi elettori purtroppo, perché gli italiani non capiscono evidentemente il loro sforzo di governo, però sono di una simpatia, cioè sono comici. Alfano è comico, dici, in sì, purtroppo c'è poco da ridere, perché comanda la polizia di Stato e voi fate telefonare a un poliziotto a caso che sta ascoltando la Zanzara in questo momento e fatevi dire se si sente protetto, tutelato e difeso dal ministero, e quindi c'è poco da ridere, perché si dovrebbe dimettere ieri. Allora, però è simpatico, perché pensa di aver vinto le elezioni, quindi uno che dice che ha vinto le elezioni è simpatico. Allora, liberté, égalité, tieniteli te, questa era la cosa. Qualche frase anti-salviniana della raccolta qua e là, c'è una Sciarelli, non so se ti hanno detto della settimana scorsa, te la voglio fare sentire. Ma chi l'ha visto, che oltretutto è una trasmissione che io guardo da quando ho 15 anni, per questo vengo sfottuto dai miei amici, che se l'è presa con me anche a chi l'ha visto. Vabbè. Sentiamo. Allora, stiamo cercando il padre, l'avete capito tutti, quindi insomma è l'unica cosa che gli ho detto. E io però devo dire, se il traduttore mi aiuta, Brian, scusatemi la battuta, Brian, se per caso vedi Salvini, ti becca Salvini, tu subito devi dire sono irlandese, perché se no ti mette sotto con una ruspa, poi ti spiegherà il traduttore proprio. Tra l'altro questo qua è uno che andava in bicicletta da mesi, che non lo trovavano, irlandese. Non è... Infatti cosa pensano dell'Italia all'estero con delle battute idioti del genere, però vabbè comunque. Ma e poi c'è anche la Sciarelli a Pontida, aspetto Parenzo domenica, aspetto anche la Sciarelli. C'è anche Santoro, Santoro che dice che da Salvini si può passare al nazismo sui campi rom. Aspetta, ti faccio sentire pure. Allora a questo punto, capisci, quando tu dici che così arrivi sulla soglia del nazismo, non dici un'eresia, perché i nazisti cosa fecero? Inizialmente dissero facciamo come Alemanno, mettiamoli dentro un campo così li controlliamo tutti. Poi dopo hanno detto no, guardate che questa cosa non è efficace, pertanto questi sono dei delinquenti abituali, saranno sempre dei delinquenti abituali. Allora il campo è stato smantellato, sono stati messi dentro i campi di concentramento. Va bene. Senti, io voglio. Uno che accosta la Lega al nazismo si becca la querela. Non so, il passaggio era. C'era una citazione precedente di Salvini sulle ruspe. Va bene tutto, saremo brutti, cattivi, a parte il fatto che non siamo né brutti né cattivi, ma siamo solidali in maniera più intelligente rispetto alla sinistra. Chi accosta la Lega al nazismo si becca la querela. Senti, io voglio capire una cosa, ma quelli là del che stanno sugli scogli lì, tu dici non è la Francia ma fa bene. Ma restassero per sei mesi. Sì, magari asciughino gli scogli anche se ci riescono, no? Perché? No, se tutto il resto del mondo civile chiede per entrare in un paese di avere i documenti in regola. Ma perché li conosci scappano tu uno dalla per uno? Ma scappano solo gli eritrei, somali, ma non si fanno identificare. Se rifiutano di dare, se ti rifiuti di dare le impronte digitali, ti metto sul primo balcone e ti rispedisco. Ragazzi, io comunque mi rifiuto di pensare che tutti i somali e tutti gli eritrei sono profughi di guerra, ragazzi. No, ma scusami. Tutti i somali e tutti gli eritrei non sono tutti profughi di guerra. Voglio chiedere io, secondo me non lo sono tutti quanti, ma cosa vuol dire tutti? Ma se c'è la guerra, voglio capire che cosa farebbe Salvini con quelli là che hanno stuprato la ragazza. Ma negli ultimi due anni ci sono stati in Italia 439 suicidi per motivi economici. È guerra anche questa. Prima di aiutare tutto il mondo, vorrei aiutare anche un po' di italiani in difficoltà, se posso farlo, se non era. Senti, no, voglio dire, in 20 secondi, con quelli che hanno stuprato quella ragazza disabile a Torino, quali sono i provvedimenti da prendere secondo te? Castrazione chimica, che funziona in tantissimi paesi al mondo, e poi in carcere nel loro paese. Io sono contro la pena di morte per motivi. Però in carcere loro paese. Prima la castrazione chimica in modo tale che non rimettono le mani addosso a un bambino o una donna. E poi in carcere nel loro paese. Grazie, a presto, ciao. Il segnale orario vi è offerto da Interplanet.it, servizi innovativi di telecom. C'è un settore dell'industria italiana che fa muovere l'economia reale, trasporta la ricchezza, si muove al ritmo del paese. È il settore dell'autotrasporto, che fa arrivare nelle imprese, nei negozi, nelle case, tutto ciò che quotidianamente utilizziamo. Radio 24, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori, vi accompagna in un percorso per conoscerlo meglio, nei numeri, nei problemi, nelle opportunità, nelle imprese. Gli orari degli appuntamenti su radio24.it. Buongiorno, sono Martin Casogiovanni e vorrei un furgone Peugeot. C'è il nuovo partner con ben 4 metri cubi di carico e lunghezza utile superiore a 3 metri. Ragazzi, tutti dentro! Piano però! Nuovo Peugeot Partner con motori Blue HD Euro 6, sensori Bluetooth, touchscreen e navigatore. A 320 euro al mese per 3 anni con noleggio all'inclusive. In più, manutenzione d'assistenza garantite Peugeot. Peugeot. Scade il 30 giugno, salvo approvazione PSA Renting Italia. Fogli informativi in concessionaria o su peugeotprofessional.it. Com'è possibile che ci siano queste offerte per la Sardegna? Sto indagando su sardiniaferris.com. Ah, è proprio un giallo! No, aspetta, è una nave gialla! Usa la testa anche tu! Per Sardegna, Corsica ed Elba, sardiniaferris.com. Il mio menù del giorno? Per colazione, la delizia di portare l'auto dal meccanico. Per pranzo, un'ottima riunione. E per cena, panino, dopo il calcetto. Fortunatamente non è sempre così, ma in certi periodi capita. E quando non riesco a mangiare bene, integro al meglio. Con Multicentrum Uomo. Multicentrum Uomo è l'integratore multivitaminico e multiminerale specifico per te, per aiutare a supportare le tue esigenze nutrizionali. Multicentrum. Completo dalla A allo zinco. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata. Sono un trader. Quando chiude Londra apre New York. E io sono nello stesso istante in tutti e due i posti. Con Fineco posso accedere ai principali mercati mondiali e ho migliaia di strumenti con quotazioni, grafici, analisi e news. Tutto in tempo reale e anche da mobile. In più tanti corsi, anche online, per imparare a fare trading e migliorare le mie strategie operative. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su fineco.it. Fineco, la banca che semplifica la banca. Direct Line presenta 3 mesi gratis di polizza auto. Ciao, sono a casa. Ciao. Grazie per la carta di credito, l'ho usata per una polizza auto con Direct Line. Cosa hai fatto? C'era un'offerta imperdibile, 3 mesi gratis di polizza auto. Ma tu non hai l'auto. E ho comprato anche quella, è qui fuori. Cosa facevo? Perdevo l'offerta? Con Direct Line sei assicurato per un anno, ma 3 mesi sono gratis. Fai un preventivo su directline.it o chiama all'848 80 11 80. Offerta soggetta a restrizioni. Prima della sottoscrizione, leggere il fascicolo informativo su directline.it. Cosa leggi? Mi aggiorno sulle nuove tendenze. Ah, roba da donne. Veramente no. Senti, dal 2020 Londra vuole bandire le auto diesel dalla città, per lo smog, capisci? Ottima idea. Anche il sindaco di Parigi cerca di bandire il diesel. Che facciamo, ci trasferiamo? Prima di cambiare città, proviamo a cambiare auto. Il mondo evolve in fretta. Per essere avanti anche nel modo di muoverti, non basta rottamare la tua vecchia auto. Passa all'ibrido. Oggi Yaris Hybrid con 3.500 euro di eco-incentivi Toyota per tutti. Ti aspettiamo anche sabato. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta La Zanzara. Dio, boh, se qualcuno parla di te male, lo ammazzo, Dio, sei il re. Sabato c'è stata una grande manifestazione a Roma, caro Parenzo, il Gay Pride. Molti culi di fuori, eh? Molti culi di fuori, molti pennacchi, molti travestimenti. C'era anche Pennacchi e non Antonio. No, Antonio Pennacchi. Molti travestimenti. C'era anche un carro con personaggi del mondo omosessuale che si chiamano i Gorilla. Sì, i Gorilla. Non me ne frega niente. Spettacolare. Come non te ne frega niente? No, mi pare ormai una roba veramente. Ah, una superata. Carnevalata. Secondo te sì, una carnevalata? Beh, quello sì, quello sì. Cioè, superata. Dice ormai non è più tempo sì, di Gay Pride. No, esattamente, a parte che non era a Roma, ma sì. C'era un qualche signore anno fa poteva fare scandalo, servire. No, non ti piacciono adesso. Anche a te non piacciono i Gay Pride, cioè non no, ti piacciono non le sfilate in città con i culi di fuori, diciamo la verità, non no, ti piacciono. No, questo non mi disturba per niente. Ma lo puoi niente. Anche dire da uno no, di ma te sinistra, lo dico, lo non mi disturba, non mi disturba, ma non me ne frega niente, cioè non è quello fai la battaglia, oggi non è quello, chi se ne frega. Ma che c'entra? Non è che la battaglia, cioè ti piacciono no, o no i culi dei diritti? I culi di fuori per strada, ti piacciono no, o no? Ma non me ne frega, mi poteva scandalizzare qualche anno fa, poteva servire, adesso è una sola roba banale che viene fatta ogni più. Anno. Comunque, dov'è lo scandalo? Cioè chi si scandalizza è un cretino oggi, una carnevalata. Amici camionisti, c'era anche un signore su questo carro che si dichiara camionisti? Si dichiara camionista, ah. Perché si dichiara camionista ah, omosessuale, okay. Dice perché io faccio camionista, non posso essere omosessuale, ma autotrasportatore, sì. Quello che è. Più che un gay sembri un camionista. Perché però un camionista gay non può esistere. Infatti la mia professione faccio il camionista. Ah. Trasportatore di mobili. Gay. Poi ci sono sempre questi rumori, no, al Gay Pride, con i carri che camminano, fastidiosissimi questi rumori di sì, fondo. Appunto. Secondo la Polverini, sotto casa sua c'erano persone di sesso incerto. Di sesso incerto. La trovo una definizione anche geniale, se vogliamo. Sì, sì, sì. Io vivo in una zona a Roma, sotto ho tutta una serie di, diciamo, di persone che arrivano da altri continenti perché c'è una stazione. Sopra, la sera, dalle 10 alla mattina alle 6, c'è un, diciamo, persone che passeggiano di sesso incerto. Mm. E quindi è evidente che vivendo io in un quartiere dove... A cui parlava in realtà dei transessuali, evidentemente, persone di sesso incerto. Trans, si chiamano trans. Nel gergo comune, la Polverini dice persone di sesso incerto. No, sono donne, anzi uomini in un corpo da donna o al contrario. No, no, sono donne in un corpo da uomo, diciamo. Donne in un corpo da uomo. Sono, sì. Donne in un corpo da uomo. Sì. Oh, Gaspari ha definito una cosa orrenda. Gaspari. Orrenda il Gay Pride. Orrendo. Gasparri. Ma dai, vice presidente del Senato, Gaspari, dai, su, non essere come così. Jurassic Park, no, dice, dai, dai, Gaspari. Dai, è come dai, dire pterodattilo, no? No, dai, non dire queste cose, non dire queste cose. Sai cos'è lo pterodattilo, ti ricordi? Sì, sì, ma non dire queste cose. Ah, a proposito, no. Sai quelli che hanno Gaspari. Sai quelli che hanno stuprato Wikipedia. Hanno stuprato quella disabile. C'è stata anche una manifestazione, credo, dell'estrema destra. Senti che cosa dicevano questi signori. I coglioni ci devono tagliare a quelle. Bastarde, bastarde. Questi se ne devono andare di qua. Punto. Ma chi? Però conosci qualcuno buono, portamelo. Se ne conosci qualcuno buono, portamelo. Io non ne conosco buoni. Uno che fa una cosa del genere in branco è un animale. L'hanno violentata per 3 giorni senza dargli da mangiare. Secondo te questa gente è gente che è degna di vivere? Cioè, non lo so. Che deve venire a aiutare, deve venire Mussolini, doveva venire Mussolini, metteva a posto tutto, anche Salvini. Sì, Salvini è la sua, diciamo, la l'incarnazione. Sì, insomma, più o meno ha la stessa idea, però Salvini mi sta bene. Ci vorrebbe Mussolini o Salvini. Questo ti dà l'idea, no? Vabbè, siamo qui, 800 24 00 24. Mi hanno segnalato la settimana scorsa che c'è anche uno spot che gira criticato dei pannolini Huggies. Dei pannolini Huggies che dicono che sia uno spot maschilista, con degli stereotipi, le solite ridicolaggini di chi critica gli spot che vanno tutti bene. Non c'è nulla di strano, dopo ve lo faccio sentire. Pasquale da Lecco, vai. Buonasera, dottor Barisoni. Dimmi, no, Barisoni un corno, sono Cruciani, ciao. Ah, la zanzara? Dai, su, non fare il coglione, Pasquale, dai, non fare il cretino. Momento, se la zanzara, ho diritto a 1 minuto e 44 secondi per esprimere quello che voglio dire. Sì, momento. Come da accordi tra il mio direttore generale, dottor Cesare Castaniga di Monte, il vostro direttore. Sì, Pasquale, però devi mettere, devi togliere il viva voce. No, ce l'ho la viva voce. Vabbè, dai, forza, dimmi. Che bello in Francia, Parenzo, eh? Mm. Che bello, mancava solo la scritta no way. Se vi piace. No così. Way. E se vi piace, Parenzo? Così? No, ma lo devi dire a me. A te piace? Niente, Parenzo, ce li teniamo noi, non ti preoccupare, li diamo noi d'albergo, con la wifi, la piscina, certo, la sauna, Parenzo. Certo. Mamma mia. È tutto degradato. Tutto. Io non ho capito, Pasquale. Ma io non ho capito questo qui, se ci fa o ci è. No, maestro sta scherzando. Non ho capito se ti piace quello che ha fatto la Francia o no, bloccando quegli immigrati. Bellissimo. Mancava solo la scritta no way. Bellissimo. Cioè, stai godendo per il fatto che la Francia ha ripristinato i confini, dici. Bellissimo. Mamma mia. Parenzo, perché non vai in Francia a protestare lì? Davanti alla frontiera. Io adesso parto. Ti incateni anche tu. Beh, Parenzo, sì, se non mi sono mai incatenato in vita mia, ma posso sempre cominciare a farlo. Dai, inizia, Parenzo. Voglio vedere cosa ti fanno a te. Se ti portano in un albergo anche a te con la piscina. Beh, magari sia una bella occasione per farci un giro in Francia. Scusa, Cruciani, vabbè, Parenzo. Pasquale, ma non ho capito, stai godendo praticamente tu. Come una scimmia. Stai godendo perché i francesi hanno impedito a questi di... Esatto. Ma magari nella tua ottica poteva essere bello che se si ripigliavano andavano fuori dai coglioni, no? O no? Sai cos'è, Cruciani? Sai come dice Parenzo, no? Ma no, accogliamoli, è giusto, lo farebbero tutti. La Francia è un esempio. No, la Francia patria dei diritti umani, cose di questo tipo. Francia è interessante perché accoglie i terroristi. Questo è interessante, però, storicamente. Senti, la Francia, con la dottrina Mitterrand, accoglie i terroristi e poi non accoglie i profughi. Questo è curioso della Francia. I diritti del 44 secondi, posso dire l'ultima cosa? Dai, Pasquale, dimmi, dai. Allora, scusa, ma gli ascoltatori, alle 18.30, a voi che siete nei campi rom, che state bruciando il rame, a te che c'è il semaforo, che sei lì a lavare il vetro, o a te muratore, ma alle 18.30... Ma che cazzo di stazione stai a cercare? È 104.8 che ti devi sintonizzare. È qui dove puoi intervenire e battagliare. Però se un'ambulanza ha fatto anche... non ti devi incazzare, perché questa è la zanzara di Cruciani e Parenzo. E tu nulla ci puoi fare. Nulla. Ma questo ha fatto lo spot praticamente. Grande, nulla. Emiliano, Vicenza, vai, Emiliano, Vicenza. Buonasera, sì, volevo intervenire per quanto riguarda i proclami eterni di Salvini, Lega e compagni. Io chiamo da Vicenza, quindi nel cuore della Padania, come la chiamano loro. Sì. E il problema è che questi problemi sono stati creati anche da loro. In che senso? Quando sono stati in governo. Cioè, l'immigrazione non è nata oggi, è nata ancora, sono 5-6 anni che assistiamo ai barconi che arrivano, ok? Loro cosa cazzo hanno fatto quando erano il governo? Ma hanno finanziato i campi rom, hanno fatto cazzate a tutto andare per quanto riguarda proprio la gestione dell'immigrazione. E adesso Salvini continua a rompere le palle. Sì, però il punto è... No, ma lei ha ragione. Sanatorie, Maroni fece la più grande sanatoria. Il punto fondamentale è che oggi sembra tutto dimenticato. Sì, Ma questa è anche, però, bisogna riconoscere la bravura di una leadership, no? Cioè, che per adesso, no, per il momento. È la stupidaggine degli italiani. Ma sarà anche la stupidaggine degli italiani, ma questa è la realtà, però. Cioè, che si dimentica quello che disse Maroni, quello che fece la Lega, il governo con Berlusconi, eccetera, eccetera. Beh, io non me ne dimentico sicuramente. No, ma lei non se ne dimentica e vota di conseguenza. Vi voglio leggere la frase che ha pronunciato il ministro dell'interno francese, perché una frase del genere, se fosse stata pronunciata da un leghista in Italia, gli avrebbero dato del razzista, eccetera. E il governo socialista in Francia: i migranti non passano, se ne occupi l'Italia. E Parenzo protesta. Beh, amici miei, siamo al Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. La Zanzara. Perché sei un testa di cazzo proprio. Perché il tuo atteggiamento non mi piace. Così, così. Un pezzo dello scherzo che abbiamo fatto la scorsa settimana da Azzollini, senatore del nuovo centrodestra, uomo forte di Molfetta, un papa, finto papa, Bergoglio lo chiama, lui scoppia in lacrime. C'è una frase su quella alle suore: vi piscio in bocca, vi piscio in bocca alle suore, vera o no? No, non l'ho letto, io non mi ricordo mai di aver detto frasi di questo tipo. Lei non ha mai pronunciato frasi così? Ma beh, ci mancherebbe altro. Però siccome ci sono dei testimoni ma comunque, guardi, non so che cosa c'è e non commento per favore. Pronto? Pronto, sono Antonio. Buonasera, sono... Buonasera. Sono Francesco. Senatore Azzollini. Sì, sono io. Le chiedo scusa se disturbo. No, non mi disturba, Santo Padre, sono solo molto emozionato, solo perché mi ha chiamato. Noi sono non ci... solo molto emozionato, le chiedo scusa io. Non si preoccupi. Sia tranquillo. Io la chiamo solo per un motivo, per una ragione. Mi dica, Santo Padre. Io ho letto sui giornali le frasi che lei avrebbe... e detto a suor Marcella. Santo Padre, non ho detto, nemmeno pensato di dirlo. Mai. Quando lei vorrà potrò farle vedere che è una prova costruita ad arte. Ho cercato di smentirla, ma in questo momento non mi dice nessuno, perché io rispetto la legge e mi assoggetto ad un processo, ma ho detto smentite, per favore. Mai. Eccoci qui, 800 24 00 24. Bisogna dire la verità che Enna in Sicilia, Parenzo, ha perso l'amico Crisafulli, l'amico Crisafulli ha perso, sì, era quello che diceva una volta. Quello che dicevo una volta: a Enna vinco col maggioritario, col proporzionale e anche col sorteggio. Gliel'abbiamo chiesto, senti come ha risposto. Io voglio ricominciare, non ti preoccupare. Cioè tu dici, tu una volta avevi detto io vinco a Enna col proporzionale, col maggioritario e col sorteggio. Esatto. Invece no. Vabbè, capita, ogni tanto anche i sorteggi sono truccati. A volte anche i sorteggi sono truccati. Va bene, dai, andiamo a Roma, Gianluca. Buonasera Giuseppe, buonasera David. Allora io volevo spostare l'attenzione su ciò che ha detto il nostro ministro degli interni. Sì, sì. Che secondo me ha fatto un'analisi ampiamente condivisibile. Ministro degli interni, sì. Sì, il ministro degli interni. Lei, Giuseppe, giustamente ha aperto la trasmissione facendo un plauso all'operato della Francia. No, ma perché secondo me hanno fatto bene dal loro punto di vista, non in generale, no. Come si fa a dire, dal loro punto di vista hanno fatto bene, perché se ne fottono, finalmente è stato svelato quella che è la realtà, che uno dei trattati, delle regole, se ne può fottere, perché serve soprattutto che uno Stato faccia lo Stato, cioè che lo Stato decida sulla base anche dei momenti. Questi hanno deciso, per dare un segnale a Renzi. Viviamo in un contesto che si chiama Europa. Sì, se vabbè, so chiacchiera sull'Europa. Per dare un segnale a Renzi, questi qua hanno detto: senti, lo sai che facciamo noi? Questi qua a 20 milioni non li blocchiamo, cioè non li facciamo passare. Così funziona uno Stato, non è che funziona con le cose. Noi facciamo entrare tutti e poi vediamo. Poi li facciamo arrivare alla stazione senza fare nulla, li facciamo arrivare fino a 20 miglia. Poi quelli invece fanno lo Stato e decidono giorno dopo giorno quello che fare, secondo la loro, loro desiderata. Sì, Giuseppe, io... Ma uno si può appellare, no? L'Europa, i trattati Schengen, e quelli ti dicono, sì, vabbè, noi blocchiamo. No. Io non mi appello né all'Europa né ai trattati Schengen, però io vorrei portare un attimo l'attenzione sul fatto che la Francia e l'Inghilterra hanno però contribuito a crearla questa situazione. Ma io non lo so, da che punto di vista, non facciamo discorsi... No, per carità, ma l'intervento militare per buttare giù Gheddafi... Benissimo, siamo d'accordo. Allora? Allora che facciamo? Prima andiamo giù, facciamo una guerra, distruggiamo comunque un regime che può essere anche sbagliato. Però, ragazzi, però cerchiamo di capirci. Tutti quanti pensavano che Gheddafi fosse brutto, sporco e cattivo, e all'epoca tutti quanti dicevano sì, giusto, anche quelli che adesso dicono no, non bisognava farlo. Andava bene abbattere Gheddafi. Poi la situazione è sfuggita di controllo e sono ricominciate le partenze da lì. Va bene, Gianluca, grazie. Però... Gino da Foggia, Gino. Volevo soltanto riprendere un tema che normalmente lei tratta sovente delle caro, ma sembra che sia caro, perché ogni volta che c'è un gay pride lei lo mette in evidenza. E c'è stato un gay pride a Roma, punto, ne abbiamo accennato per 30 secondi, qual è il problema? Per 30 secondi? Come per 30 secondi? Ma, anche se fa per 30 secondi, ma... sovente parla di quello, lei potrebbe chiamare, anziché Rai 24, potrebbe chiamare Radio Gay. E quindi che problema c'è? Lei mi ha dato pure un'idea. Chiamiamo Radio Gay, allora qual è il suo problema? Lei odia i gay, non sopporta i gay, qual è il punto? No, non è che io non sopporto i gay, soltanto perché quando lei parla dei gay potrebbe anche invitare persone che la pensano in maniera diversa, nel senso, nel modo di comportarsi. Lei come la pensa, per esempio? Non le piacciono i culi di fuori al gay pride? Ma senti un pochino, ma lei c'ha, lei come cos'è nato? In un porcile, oppure è nato da una madre che le ha insegnato qualche cosa? Sua madre che cosa le ha insegnato da piccolino? Scusi, Gino, non ho capito bene. Le piacciono i culi di fuori al gay pride? No? Io le chiedo che cosa le ha insegnato sua madre da piccolina. Sua madre, che cos'era sua madre? Era una troia che parlava sempre di culi? Non lo so io. Non ho capito, perché ascolti un pochino, sua madre era una troia. Sua madre, non ascolti un pochino, robe terribili. Le vuol sempre togliere la parola a tutti quando non le va bene. No, ma scusi, signor Gino. Io sto parlando. Ma lei sta parlando. Mi fa parlare, ascolti un pochino. Sua madre era una troia? Per cortesia, mi fa parlare. Per cortesia, mi fa parlare. Gino, la sto facendo parlare. Dai, dimmi. Allora, lei c'ha un microfono. Sì, una potenziale, un potenziale enorme di che l'ascolta una platea enorme, scusi un pochino, ma che cavolo di contributo lei dà per migliorare la società parlando di culi? A rango di culi. Le piacciono i culi fuori dai Pride o no? Non credo che non si tratta di culi che mi piacciono o non mi piacciono, si tratta di buon gusto. Non le piace vedere i culi che sfilano dai Pride. Se le piacciono i culi, deve pensare che c'è persone che i culi non gli piacciono. A lei non piacciono i culi di fuori, ho capito. Ma non è che a me non piacciono i culi. da che parte vuol portarli la no, ma io non ho capito una cosa. Ma lei crede di mettermi in successione? No. Ho 76 anni e ne ho visto di tutti i colori. Si figuri se io non ho visto i dei culi, però ha mai dato un bacio? Mi lasci parlare. Ha mai dato un bacio a un uomo? Lei, Gino? Ha mai baciato un uomo? Senti. Queste cose io le lascio a lei, visto che parla sempre di culi. A proposito, ha chiamato mia madre? Ha chiamato mia madre incazzata. Ha chiamato mia madre incazzata. Ha giunto qua la telefonata. Gino, mia madre è incazzatissima con lei. È pure incazzata. Certo, è incazzata ragione, perché lei ha dato della troia. È incazzata con chi? Con me o con ma lei? Ma con lei, scusi, le ha dato della troia. Mi sta chiamando di continuo. Scusi, che cosa devo fare? Un figlio che parla sempre di culi, la madre forse che è una troia. Scusi, ancora. È incazzata mia madre come una bestia. Dai. Ma mi scusi, un figlio parla di culi e di io. Ma mia madre è incazzata come una bestia. La madre. Mia madre, e guardi, scusi, c'ha ragione, Gino. Ma c'ha ragione a incazzarsi con lei, non con me. No, è incazzata con lei perché le ha dato della troia. Mi sta chiamando di continuo. Cosa rispondo io? Sì, pure. È incazzato con me. Allora, le dica a sua madre che levi meglio i suoi figli. Che i figli con un microfono in mano devono dare un contributo per migliorare la società, ma non per depravarla al massimo. Ma dove vogliamo andare a finire? Scusi Gino, allora, ma mi dica lei, mia madre ha un microfono in mano, ma si rende conto che razza di potenza che ha di parlare a milioni di migliaia e migliaia di persone? Scusi. Ma lei deve dare un contributo finché la società migliori. Ma scusi, perché una società dove ci sono pure i froci con i culi di fuori secondo lei è una società buona quella lì. Buona per lei, allora Radio Gay, no Radio 24, diretta a me. Beh, un bel Radio nome Gay, però, mi ha dato un'idea, Radio Gay, non è male. Io l'ascolto, guardi, io l'ascolto sempre, ma l'ascolto veramente con gusto infinito di incazzarmi a non finire contro lei e quanto parla di droga, perché io mi ricordo benissimo la lotta che ha fatto per quell'uomo di spettacolo che il poverino era stato escluso da Sanremo. Prendiamo anche di drogati da tutte le parti, guardi che mia madre prendiamo i culatoni, prendiamo i finocchi, facciamoci una bella società di questa una bella Macedonia. Scusi, che male hanno fatto i finocchi? Eh? Che male l'hanno fatto i finocchi? Ma lei ha mai provato il sesso anale? Ma che cosa sta chiedendo lei? Ha mai provato il sesso anale o no? Ma lei, ma è possibile che lei deve sempre fare queste cose? No, ma io voglio capire una cosa. Ma secondo lei tutte le persone sono sporche? Ma perché sporche? Che male c'è? Lei deve misurare gli altri col suo metro. Aspetti un secondo. Buonasera, canaglie. La Zanzara. Vabbè Gino, guardi che mia madre è una furia, è una belva, te lo dico subito. Va bene. Cioè, mia madre se la pigli con lei. No, lei le ha dato della troia a mia madre, adesso ci penso io, non ti preoccupare. Guarda Gino, divento veramente ti faccio scatenare mia madre. Ma sei vergognoso, sei una vergogna, basta. Mandatemi via questo stronzo. Luca da Torino, Luca. Era il dottor Cruciani. Dimmi. Senti, io volevo contraddire quei dottori che parlano della scabbia e che probabilmente non prendono i treni, prenderanno comunque le auto di lusso, perché sì. Io comunque sulla linea Genova Ventimiglia l'ho presa due volte e molte persone che prendono quella linea l'hanno presa. Io non sapevo che cosa fosse, mi ero spaventato, avevo comunque un prurito terribile sulle chiappe. E sono andato dal dottore, sono stato 4 mesi prima che mi e cosa le hanno diagnosticato? Sentiamo. Me l'hanno diagnosticato perché io non sapevo che cosa fosse. E da chi l'ha presa questa scabbia? Alla scabbia. L'ho presa. Allora, vi spiego semplicemente, praticamente, sì. In alcuni sedili c'è il tessuto, sì. È in quel tessuto che si annidano. Sono state le pulci, semplicemente, come ci sono in tutti i treni locali, perché, ma non per gli immigrati, perché sono treni sporchi. Io non do la colpa necessariamente agli immigrati. Che c'entra la scabbia? Ma le hanno diagnosticato la scabbia o no? Perché ce l'ha in testa lei la scabbia, secondo me. Non faccia allarmi falsi. In Italia, per ora. Ma non è allarmismo, è la verità. No, ma le hanno. Mi risponda gentilmente, le hanno diagnosticato la scabbia? Certo, l'ho presa, ho dovuto prendere... C'è un foglio dove c'è scritto che lei ha la scabbia del medico? O lei ma pensa che... Perché anch'io mi prudo, ma mi prudo dalle cazzate che sento! Anch'io mi sto prudendo tutto! Ma cioè, se ti sta dicendo che l'ha presa, sia che l'ha presa? Non l'ha presa. Non lo so, va bene, aveva preso la scabbia. Allora, no, me l'hanno diagnosticato, ho dovuto prendere questa crema e non mi passava, sono stato 3-4 mesi e non mi passava. Tutto e qua. Allora? E dunque? E nulla, parlando comunque con altre persone sul treno, l'hanno presa anche loro. Ecco. Allora, c'è questo sistema di trasmissione anche sui treni, si ma prende. Come mai? Tutti che sono, mi spiega, perché sono incuriosito, giornalisticamente incuriosito da questa roba. Cioè, con tutta l'attenzione mediatica che c'è rispetto agli sbarchi, ogni cosa che fanno, si sono messi il dito nel naso, guarda quanti sono, con tutti i casi se segnalati... questo qua dice che si è preso la scabbia, si era preso la scabbia, punto. Benissimo, no, benissimo. Cioè, qual è il problema? Non ho capito. Bene. Si è preso la scabbia, si è preso la scabbia, se gli hanno diagnosticato la scabbia magari però non se la sarà presa per colpa degli immigrati, non so per chi. Vabbè, ciao. Parenzo, è tornata una tua amica qui da noi. È tornata questa sera una tua amica da noi. Una mia amica. Io sto ancora pensando. Amiche. Beh, Daniela Santanchè, buonasera. Beh. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Come lei ha preso la scabbia qualche volta? No, grazie a Dio, no, non vorrei prendermela adesso, visto che domani vado alla stazione, parto per Roma, non so, andrò con una tuta. Come con una con uno scafandro, dice. Con uno scafandro, con uno perché ormai la stazione di Milano è una roba che c'è da avere paura solo avvicinarsi. Ma io veramente sono passato da lì. Come si fa a mettere i tacchi a spillo sulla tuta? Come si fa? Ma il problema non sono i tacchi a spillo, il problema sono questo attentato alla sicurezza nazionale. Questo è un attentato alla salute nazionale. È un attentato. Ma non ho capito, ma è veramente, Daniela, hai paura di cosa? Hai paura della, certo che ho paura, della scabbia? Ma dice che si guarisce subito dalla scabbia con una pomata. Ma io non so se si guarisce o non si guarisce la pomata. Se permetti, penso che tutti gli italiani preferiscono non prendersi la scabbia. E penso questo è un attentato anche alla salute degli italiani. Gli italiani preferiscono non prendersi il cagotto. E non possiamo trasformare le stazioni in dei super. Non possiamo. Io ho avuto il cagotto l'altro giorno e ho preso una roba che mi ha fermato. Lei, se tutto. Debole, è un po' malaticcio. No, ma malattia niente. Forse ma chiaro, dice, non preferisci avere o non avere il cagotto? Dice, ma francamente preferisco. Cosa c'entra, Parenzo? Ma cosa c'entra? Ma stiamo parlando di cose serie. Pur sempre ma la radio sembra che dobbiamo diventare ore, la pattumiera del mondo. Ma quale pattumiera? Perché questi qua sono la pattumiera del mondo? No, questi no. Dico la pattumiera nel senso non in quanto persone che sono rifiuti, no, voglio essere chiara, non in quanto rifiuti, in quanto l'Europa ha deciso in maniera sempre più dura, sulle quote ci ha rispostato a settembre. Ma lei si sente... Avete visto quello che è successo? Si sente francese o no? Lei si sente un po' francese o no in queste ma ore? Ma io guardi, vorrei che l'Italia facesse come la Francia. Se tutti fanno come la Francia fa i suoi interessi. Sì. Allora dobbiamo capire che l'Europa sta tradendo le radici cristiane, che nelle radici cristiane c'è la solidarietà e no, perché il cristianesimo In questo senso figurati. La solidarietà c'è assolutamente da soli, quindi l'Europa non c'è, è un'Europa monetaria ma non umanitaria. Però adesso, al di là di questo, andare alla stazione domani, lei ha paura di andare alla stazione domani? Io voglio dire io sono venuto, però sono fatto un po' di viaggi in questi giorni. Ieri stamattina sono venuto, si vedono i poliziotti. Ma sì, se uno deve passare per andare e andarsene a fare un viaggio non si accorge di nulla. È tutto però normale, lei non le sembra di una città in guerra? Ma non non è una città in guerra, ma non mi pare una città dove la gente va a cena fuori, a pranzo fuori, tranquillamente. Ma io ho visto bambini giocare in stazione. Le stazioni sono dei bivacchi. Io no, dove ma c'è certo gente che non sono contento. Che dorme per terra, gente che fa poverini, i bisogni, certo. Voglio dire così, gente che. Che c'è voi che questa siete qua, la polizia? Che ma c'è? Aprite anche casa vostra, ve li prendete anche un po' a casa vostra, tanto siete contenti. Ma c'è la polizia sotto casa sua? Nel salotto no? Di casa sua, e io sono contenta per lei. Io no, perché siamo assolutamente. Ma lei non lo prenderebbe? Non lo prenderebbe uno di questi ma vede, clandestini? C'è un problema. Allora, io sono una persona profughi. Assolutamente ospitale, penso anche generosa. Quindi a casa mia, se mi dicono veniamo in 5 va bene, se mi dicono veniamo in 10 va bene, se mi dicono veniamo in 100 non va bene. No, questo ma dico a casa problema. Sua proprio, perché non ospita un profugo a casa sua? Bellissima casa. Ma io non ci penso proprio, i clandestini, io non voglio proprio, non che non profugo, siano a casa clandestino, mia, Corso Vercelli, non voglio bellissimo. Che siano nella mia casa che se permette è l'Italia. No, non perché... voglio che chi è clandestino, chi è profugo per finta, perché abbiamo visto tutti per finta uno, sono sti profughi. Abbiamo visto no, che più del 30, del 40%, assolutamente, uno su tre, uno su quattro, poi che ci vogliono 2 anni per l'identificazione, io non perché voglio... mi sto grattando perché ho la scabbia. Io non voglio assolutamente trasformare il mio paese, la mia patria, la mia nazione che diventi un porto dove chiunque possa arrivare. Non ne abbiamo per gli italiani, non ne abbiamo, sapete cui... quali sono i tassi di disoccupazione giovanile. E allora se voi ve li prendete, aprite il salotto di casa vostra, cominciate a prendervi. Io non lo apro e non voglio aprire nemmeno l'Italia. Nemmeno Cecilia Strada però, lei magari ha... No. Ragione. Ha detto una cosa intelligente, ha detto a chi dice prenditeli a casa tua, che è un'obiezione idiota, lei dice io pago le tasse perché lo Stato risolva il problema, cioè li accolga, perché non è che se uno è malato dice fatti l'ospedale, perché si chiama collettività, questo ha detto. Beh, però non è che paghiamo, non è che paghiamo ma le tasse, si chiama collettività, ma perché scusi, anch'io non voglio paghiamo, pagare. Noi paghiamo mafia capitale, paghiamo le cooperative, paghiamo questi delinquenti che hanno detto che rende di più le questa lì clandestini che la droga, ma che sta dicendo che si rubavano i soldi pubblici dica, e che facevano dica, con questa gente il lo business. Dica anche agli amici di Alemanno, amica mia, a me non mi interessa chi ruba tutti, deve andare in galera, ma non c'è dubbio. Mi stupisco su cosa che dovremmo essere tutti d'accordo, destra e sinistra devono andare tutti a casa, mi dica chi, perché chi c'è ancora andare? Il comune di Roma in piedi. Vabbè. La regione Lazio sono tutti infarciti di delinquenza, di ladri. Ma beh, pure il sindaco e il presidente, pure Zingaretti, guardi, e Marino. Le dico, guardi, secondo me c'è una questione nella vita. Io Marino non so c'entra o non c'entra, ma è un utile idiota, perché se non c'entra ancora peggio, perché un utile idiota. Allora, fermi tutti che c'è la pubblicità. Le intercettazioni dicono se rimane se mandiamo Roma, Roma. E allora un utile idiota deve andare a casa. Fermi Zingaretti tutti, pubblicità. Deve andare a casa. Pubblicità. Fate schifo. Sì, lasciatevelo dire. La Zanzara. Mi può parlare? Per cortesia mi fa parlare. Allora, caro Parenzo, uno dei leader dei 5 Stelle, uno dei leader, insomma, Carlo Sibilia, ha detto che i 1000 sbarcarono a quarto, è il responsabile scuola del Movimento 5 Stelle. Vabbè, si può sbagliare però, sbarcarono a quarto i 1000. Vogliono portare a processo invece un tizio che ha pubblicato una foto di Mussolini sul suo profilo Facebook. Molto addirittura bene. Il GIP, ma come molto bene? Molto bene. Ma dai, su ragazzi, avanti, non ingolfi. Il GIP ha chiesto addirittura l'imputazione coatta. Molto coatta. Bene. Ma dai, ma su, molto ragazzi. Bene. Ma perché uno non può postare una foto di Mussolini sul coso? No, avanti. Non può, vabbè. Altra notizia, avanti. Mi sono imbrunettito oggi. E sinistra finita, morta. Renzi è scappato in Francia. Abbiamo vinto Venezia. Allora, Cartier, il proprietario di Cartier, ha svelato la sua paura più grande in un'intervista a Financial Times. No, la scabbia? Che no. I poveri insorgano e facciano cadere i ricchi. Ma è sbagliato questo, eh? Beh, sì, è una paura. No, è molto giusto perché stanno crescendo i poveri numericamente. No, no, ma è una riflessione che non è per nulla idiota, anzi è giusto. Bravo. Signora Santanchè, lei ha paura di diventare povera un giorno? No. No? Non ha paura della povertà? No. Cioè potrebbe campare anche con meno soldi di quelli che ha adesso? No, guardi, con la volontà, la tenacia, siccome sono abituata a lavorare da sempre, penso per chi ha voglia ci sono sempre delle opportunità. No, quello d'accordo. Ma secondo lei, lei ha paura dei poveri incazzati invece? Dei poveri incazzati? Sì, ho paura che giustamente si incazzino sempre di più, soprattutto quando vedono tutti i soldi che spendiamo per loro. Penso ai nostri poveri pensionati che non riescono ad arrivare a fine mese, penso a quelle famiglie che non hanno i soldi per pagare il mutuo, e poi vedono che ogni clandestino ci costa 30 o 40 euro, ogni rom ci costa una cifra, che per i campi paghiamo le luci, che invece i rom, i signori rom, sempre i rom, sempre i zingari, si possono chiamare zingari, Parenzo, secondo te o no? No, ma io li chiamo lo stesso, perché sino a prova contraria sono zingari. Adesso mi è già arrivato un altro, un'altra querela, non chiamarli feccia, no? No, per me sono zingari e io conosco zingari solo che rubano. Quelli che lavorano non li conosco, mi piacerebbe che me li presentassero. Io ne ho conosciuti più di qualcuno al campo La Barbuta. Se me li presenta mi fa un favore, perché io sono sempre all'idea di trovare delle prove per farmi cambiare idea. Li conosco. Invece, quindi io sono molto contenta. Se lei li volentieri conosce, me li presenta. Non presenta quelli che rubano, ma quelli che lavorano. Sì, e io sono al loro fianco e sono certa di averli al mio, perché anche per loro gli zingari che rubano fanno un danno peggiore a loro che a noi. Però voglio capire una cosa: se suo figlio si fidanzasse con una rom, con una bellissima ragazza rom, le darebbe fastidio? Ma guardi, io sono prima di tutto insegnato a mio figlio la libertà, che mi sembra un bene superiore a qualsiasi altro. Sì, e vabbè, questo quindi, d'accordo. E voglio dire, se lui si innamora di una rom, bellissima, di una rom che lavora, che paga le tasse, che è una brava ragazza e che non è cresciuta in una famiglia dove anziché farli studiare li insegnavano a rubare, non avrei niente a incontrarlo. Per me non è una questione di pelle, di invece se per si innamora è una questione se sono comportamenti illegali o illegali. E se si innamora di un uomo? Questo è curioso. Se innamora di un uomo, suo figlio è innamorato di un uomo, e dice un giorno, signora Santa, che sono gay. Sono gay e io voglio dire, cosa potrei dire a mio figlio? Che ne so. Potrei dire che la sua vita è un po' più difficile. Perché è un po' più difficile? Per l'ambiente. È un pochino più complicata per l'ambiente, per di quello per la propaganda che fate. Ma il mio amore non cambierebbe di una virgola. Vabbè, ma quello è chiaro. Propaganda che fate. Preferirei non lo fosse, perché mi auguro che mio figlio vada incontro a una vita più facile. Ma no, ma più facile. È pieno di gay realizzati oggi. Adesso questa qua è una visione vecchia, quella dei gay che sono. Sono vecchia, però voglio dire, se mi dice se mio figlio lo preferisco. Non è contenta, non è uomo. Ma non è che non sono contenta. Però lo preferisce uomo. Lo preferisce. Perché la vita è più facile, perché per lui sarebbe più facile, perché è una vita più difficile, sicuramente è più difficile, non c'è ombra di dubbio che è più difficile. Parenzo, sei d'accordo che è più difficile? Ma te credo, con la propaganda che c'è, con l'omofobia che c'è in Italia, per forza è più difficile. Guarda quanti ragazzi sono suicidati. Ma che c'entra il suicidio? Per la vergogna del clima che c'è. Cioè, anche per le cose che dice la Santa Chetto, dici? Non ho capito. Ma quello che dice lei non mi sembra omofoba, non credo lei, proprio. No, perché altri difetti, ma non quello. Diciamo. No, io guardi, questo. Su quello credo io non capisco che questa cosa della vita difficile. Chiaramente la vita difficile. Certo. Non, questo non lo ma lei pensi, io non so, lei è papà? Sì, certo, ho una figlia di 9 anni e mezzo. Lo sa che nei bambini, no? Tutto ciò che è diverso è, come dire, lo vedono come un ostacolo. Non riescono, cioè i bambini, soprattutto i ragazzini nell'età dell'adolescenza, vede che si vestono tutti uguali, guardano. Non è che i gay cose pure si vestono uguali, no, c'è cioè, un omosessuale no, si veste lasciate come. No, io voglio dire una cosa diversa. Volevo dire che sarebbe visto come una diversità, siccome è normale che un ragazzino guardi le ragazzine e non che i ragazzini guardano i ragazzini, si prendono in giro, si sbeffeggiano, cosa che a me non piace e lo trovo sbagliato, perché io trovo che ognuno deve essere libero di vivere la propria sessualità. Appunto. E glielo dico da donna, da mamma di un figlio maschio, che non cambierebbe di una virgola l'amore nei confronti di mio figlio, e sono certa che amerei il suo fidanzato. Detto questo, preferisco averlo, voglio dire, etero, perché avrebbe una vita più facile, avrebbe una vita meno difficile. Ma perché? Vabbè, ma se io non credo vogliamo vedere quella che è la realtà. A lei, se le dicesse, che ne so, vado al Gay Pride, ha visto tutti quei culi di fuori a Roma? Ecco, no? Al Gay Pride le direi no, perché io trovo che è un'esibizione, un'ostentazione che non ha nessun senso. È una cosa oscena, per la diciamo libertà, è una cosa della oscena propria sessualità, ma che la sessualità deve essere una cosa intima. Guardi, come voi uomini, quando parlate tanto di sesso perché non lo fate, chi lo fa non ne parla. No, è la stessa cosa. Parenzo non ne parla, però mi sa che... Parenzo ne parla moltissimo. No, ne parla poco. No, è il contrario. È il contrario, amica mia. È un po' il contrario tra di noi. No, ci ascolta poco. Gay comunque, sì, direi a mio figlio, ma cosa stai facendo? Vabbè, ognuno, ma Gay Pride è bellissimo. Combatti per le libertà, ma non per mettere in mostra la sessualità, ma... l'appartenenza. Ma che senso ha? Ma sono delle caricature, fanno male a se stessi. Ma perché? Sono ma uno caricature. Si... Ma uno va lì, si diverte, su, ma che... Ma si diverte a far cosa? Ma si diverte, dai, su. Si ma diverte... si divertirà quando è a casa sua, nel letto, ma... con chi ama, ma no? Si diverte lì sul carro, a cantare, a ridere, ma una grande festa. Ma cos'è, di... mica carnevale? Ma è una festa di... Ma sì, non sono è, un mica po le è un po' il carnevale dei gay. È un po' ma il carnevale dei gay? Ma se i gay vogliono tanto, e vogliono, professano l'amore, e parlano di diritti, e parlano allora... di dovere... Ma cosa c'è di più bello che stare in un letto col proprio amato? Mica devono andare in giro col culo di fuori, no? Vabbè, cosa ma, devono dimostrare? Vabbè, ma è una cosa comunque, no? Di una rivendicazione. Ma, dai, ma, di... ma no, ma che rivendicare? Ma che come quelle donne che mettono tutte in piazza? Ma la cosa più bella che c'è è coprirsi, mica svestirsi. Ma cos'è il segreto? Pure lei ogni tanto va con qualche vestito un po', no? Ma io cerco di essere molto poco scollata. Vedo, non vedo. Ecco. Io non credo di come la Parietti una... l'altro giorno, come la Parietti. Non l'ho vista. Come non l'ha vista? Era là insieme a lei, no, alla trasmissione. Non l'ho vista, non l'ho come vista perché mi era di spalle. Ma come l'ha vista? A un certo punto, come combatteva. A un certo punto ha detto che cacchio ridi, ha detto signora Parietti. Ma sai che io non l'ho sentito? No? No, non ho sentito, non l'ho vista. Non ma l'ho le sentito. Cose che sente dalla Parietti come le giudica? Ma io non le sento. Non le sente non nemmeno? Sente, no. Non le sente nemmeno? La sentivo sempre quando voleva cantare e devo dire che non è intonatissima. Quando mai ha cantato la Parietti? Sì, a voglia, tutte le feste che andava prendeva un microfono, non glielo toglievi più. Sì? Sì. Ma è... sì. Però allora lì la sentivo. Però parlava sull'immigrazione, eccetera. Ma l'altro sai che giorno non l'ho sentita? Sui Rom, dice che c'è non la stessa trasmissione. Non ha sentito nulla. Non l'ho sentita. Ma cavolo, vabbè. Io non ho capito, su quegli immigrati che sono sugli scogli a Ventimiglia, lei che cosa farebbe? Cioè, che cosa farebbe? Io li porterei a casa loro. Vabbè, ho capito, non si possono adesso, non è che li si possono portare in Eritrea. Non li farei nemmeno partire. Vabbè, quello ormai sono arrivati. E io sono le chiedo cosa farei? Non li farei partire, non li farei venire in Italia. Ma ora c'è da gestire questa cosa. Farei centri di accoglienza sulle coste libiche, toglierei tutti i motori alle imbarcazioni per non farle partire e per non di chi? Continuare a sovvenzionare. Bisogna fare un'invasione di terra, di scusami, ma non ma si può continuare a dire queste robe false. Ma cosa fa l'ONU? I caschi blu, cosa fanno? Ma come qua i caschi blu? Ma cosa si va in Libia? Mamma mia, potete fare perché voce non, di cacciare perché ma non, non è porta... possibile, ma come si fa, cosa si fa l'invasione della per Libia? Voi non è possibile, ma... se siamo qua che c'è un'invasione, c'è un attentato alla salute nazionale, un attentato ma perché non porta anche lei qualche sicurezza aiuto alla stazione centrale di Milano, un qualche aiuto ai signori immigrati alla stazione centrale? Ma io non ne vorrei vedere uno di immigrato, ma perché sono non è il loro posto la stazione. Però sono là. Ci sono, ma sono là, li carichiamo e li portiamo a casa loro. Renzi è così bravo, si mette lì, fa gli accordi, hanno voluto le primavere arabe, hanno voluto la guerra alla Libia che è stata una stronzata e adesso le primavere arabe sono gelido inverno per noi italiani. Primavere arabe che avete anche appoggiato anche voi all'epoca. No, le ho appoggiato niente, c'era un signore che è il peggior presidente della Repubblica che si chiama Napolitano no, che ha voluto Napolitano, la guerra. Mica ha fatto la c'era guerra lui in Libia, che si su chiamava Sarkozy e un altro che si chiama Obama. Ecco, mi sembra che Sarkozy non fosse proprio cose, socialista, ma in politica estera non ha sbagliato niente. Scusi, perché l'altro giorno ha detto che Berlusconi non ha mai rubato una lira agli italiani? Perché Berlusconi è uno di quei politici che non ha mai rubato una lira. Beh, però qualcuno mi ha detto mi sembra che quelli che rubano sono gli c'è sotto gli occhi di tutti, la frode no? fiscale, no? Cioè, ma cosa volete ancora difendere? Che abbiamo un governo ma con no, Poletti che era il capo delle COP, che ha la fotografia con questi qua e stiamo ancora a difendere. Quale parliamo difende? Del nessuno comune di Roma niente. Che dovrebbero andare a casa domani mattina. Vabbè, a vergognarsi. Ma d'accordo, lei ha detto che Berlusconi non ha mai rubato cosa una lira agli italiani. No, Berlusconi non ha mai rubato però un soldo. Però è stato condannato per frode fiscale anche, no? Vabbè, ma le dovrei raccontare la storia di questo paese, no, carità, dell'uso per... politico della giustizia, di come hanno tentato di fare fuori Berlusconi. Allora no, guardiamo avanti, no? Poi se siete contenti di tenervi quei politici che rubano, teneteveli, ma io no, li voglio a casa. Però, ma scusi, non è che può venire a alzarsi il ditino sui politici che rubano. No, guardi, quando, io posso alzare virgola, nel tutte suo partito, le dita virgola dei politici che non rubano perché non appartengo a quella categoria, grazie no, ma non lei, e certo, non mi faccio comprare per 1.000 euro. Ma nessuno e dice lei. Vera, ma deve essere di quei politici che neanche sull'autobus non hanno di punta. Mai lavorato un'ora nella vita, che pensano che la politica è uno stipendio. Io ho detto al mio partito, facciamo la proposta che i parlamentari devono guadagnare la lo stipendio medio degli italiani, cioè, 1.200 euro. Quando è che perché il parlamentare si fa per spirito di appartenenza. Ma la stanno a sentire o no? Perché sembra che lei sia un po' in rotta con quelli che decidono dentro Forza Italia. No, io non sono per niente in rotta, guarda. Col cerchio tragico, il famoso rapporto. Quando è che lo sente Berlusconi spesso? Ma io guardi, l'ho visto, sono stato con lui sabato l'altro a Pietrasanta, con Francesca Pascale, con la Bergamini, siamo andati tutto a posto, tutto regolare. Peraltro abbiamo vinto le elezioni, il presidente ogni volta che lo cerco mi risponde al telefono, Berlusconi parla con tutti, con me sicuramente ci parla, poi io rispondo per me. Comunque voglio dire, se vi volete tenere questi politici, che ma teneteveli, io ve li voglio mandare a casa. Vabbè. Ma quali? Grillina, ma quali? Ma dobbiamo tenere il comune di Roma in piedi, la regione di Lazio in piedi, dove è infarcito da questi ladri che prendevano i ladri soldi sono pubblici. Tutti ladri, ladri quelli no, che rubano. Ladri sono tutti un cacchio. No, sono tutti nel senso quelli che rubano destra, sinistra, eccetera. Ma a me non mi interessa destra, sinistra. Vabbè, ma che c'entra adesso? Sì che ci vogliamo liberare di quelli che rubano, tutti si vogliono liberare di quelli che rubano. Mi sembra una cosa santa. Ma perché allora non si scioglie il comune di Roma? Ma non lo so, non si scioglie per mille motivi, perché no, per motivi politici fondamentalmente. Per motivi politici quali? Però comunque perché il PD ha paura di perdere? Anche sì. Anche, cioè. Attenzione, ma non è un problema che interessa gli italiani. Attenzione alla scabbia, domani. No, attenzione a Renzi, che siccome lui è abituato ad andare a Palazzo Chigi senza passare le elezioni, adesso ha paura di andare a votare a Roma, sia al comune che alla regione. A presto. Se ne faccio una ragione, arrivederci. Sia sereno. Arrivederci. Arrivederci. Se lei le piacciono i culi, se lei piacciono i culi, deve pensare che c'è persone che i culi non gli piacciono. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta La Zanzara. Lei cos'è nato? In un cortile oppure nato da una madre che le ha insegnato qualche cosa? Sua madre che cosa le ha insegnato da piccolino? Avverto questo signore che mia madre è veramente incazzata come una biscia, eh? È veramente incazzata. Franco da Parma, vai. Ciao Beppe, ciao David. Dimmi. Io volevo fare un appello, se qualcuno c'ha la radiolina domani in stazione a Milano, attenzione al morbo della mucca pazza, perché è contagioso. Ah, domani c'è anche il morbo della mucca pazza, dici? Bisogna stare attenti, sì, perché c'è il morbo della mucca pazza. Adesso, ragazzi, non diciamo cazzate. Allora, la questione della scabbia è una questione... No, no, era la risposta... Non bisogna minimizzare, è una questione... Sì, allora, non bisogna minimizzare. Aspetta, Franco, è una cosa seria, però... non è che uno può dire bisogna stare attenti se uno passa dalla stazione Terme. Ma avete letto centrale. L'intervista no, ieri a un medico sul Corriere della Sera? Sì. L'avete letta o no? Quello che lei stava dicendo, Beppe, ascolta. Comunque io ti avevo chiamato per un'altra cosa. Io sono... Mi senti, sì? Sì, vai. Ah, io sono Franco, il camionista gay di Parma. Sì. Ti ho già chiamato, mi ha detto amici cazzate, perché non è vero. Ti volevo dire che mi tocchi essere d'accordo sia con Gino... che con l'onorevole Sanferché sul fatto... Cioè tu sei un camionista gay di Parma? Un camionista gay, Franco? Che ho due figlie, che... Come due figlie? Io mi sono fatto una moglie perché mi sono innamorato del mio compagno, abbiamo fatto 25 anni l'altro giorno. Ah, col tuo compagno? Ma tu fai camionista, che fai il trasportatore? Poi vicino, dallo anche a mia... dammelo che lo do a mia madre, che gli fa un culo così mia madre, signor Gino. Anche lei, queste cose. E ti volevo dire che comunque io ci sono stato qualche volta a Gay Pride, vestito come mi resto tutti i giorni, non c'è bisogno di mostrare il culo, anzi diamo su un piatto d'argento il fatto di farci prendere il culo da tutti, perché io sono uno di quelli che oramai ho bisogno di alcune certezze che sono veramente politiche. Io ho bisogno di una reversibilità della pensione, ho bisogno che quando vado in ospedale dal mio compagno che comincia a invecchiare, che nessuno mi cacci fuori. perché è possibile anche questo, e non chiedo nient'altro che diritti, ma non vado a mettere il culo sul carro e far ridere. Vabbè, ho capito, ragazzi, se uno vuole andare a mettere il culo sul carro, ma qual è il problema? Non ho capito. Cioè, basta. No, non c'è nessun problema. Io vivo in un paesino dove guardano queste cose, ecco cosa sono i gay. Non guardano me che sono cattivista, sì, mio compagno che è un fabbro. Vanno a guardare queste cose nei nostri paesini. Io abito in un paese e allora, che è realtà, e allora sembra una cosa che non aiuta la causa, la causa non quale aiuta che la causa, fatta, non ma che non aiuta la causa, ma che c'entra, dai. Niente, ma se vogliamo andare a chiedere dei diritti, possiamo andare a chiedere questi diritti. Ma uno pensa bisogno, veramente che... Ma cosa vuol dire? Che allora andiamo per l'inseminazione artificiale? Ma non è che è gay, Brian, ma uno pensa davvero, già è un paese di bigottoni. Ma ragazzi, se, ma veramente siete incredibili. La gente cioè, veramente, purtroppo con pensa tutte, che siano così con tutte le porcherie che ci sono in giro, testa, con tutte no, le cose, un po' di gente che sfila in piazza e che mostra un po' il culo, le piume, eccetera, non va bene. Ma a me va benissimo, figuriamoci. Loro scambisti vanno a fare una sfilata, tutti belli nudi, che si chiappettano per strada. Ma che c'entra? Ma non la vedo giusta, e non diamo comunque una bella visione di quello che siamo, perché purtroppo dobbiamo vivere con tutti, non soltanto con voi due, che io vi stragodo, non vivo solo con voi due, magari fossero tutti come voi due. Dobbiamo vivere nelle piccole realtà. Io ho un paese di 4.000 abitanti, tutti, ma scusa, ma ogni tanto cioè, Franco, ci adorano perché siamo due uomini che lavorano, che vivono insieme, che hanno obblighi, doveri, che hanno sempre rispettato le leggi e pagano le tasse, basta, e ci stragodono questi quattro anni. Io ho capito una cosa, Franco, ma tu da camionista gay, no? Una volta forse te l'ho chiesto, già quando bussano ogni tanto alla tua piazzola, che succede? Ma è vero o non è vero? No, non è cazzata? Assolutamente, sì, e certo, tu che fai? È verissimo. Dipende da chi c'è, veramente. Cioè, dipende da chi c'è. Se gli piace. A volte ci sono anche dei bei ragazzi con cui si scambia quattro chiacchiere. Cioè, ogni tanto ti sei fatto qualcuno, diciamo la verità. Assolutamente sì. Ah, così, cioè tu ti fermi alla piazzola, bussano e ogni tanto ti sei fatto qualcuno. E perché no? Capita. Come, scusa? Capita. Capita. Vabbè, non sembra un una po' cosa così si presenta strana. Davanti Megan Gay e tu gli dici di no, cazzo, quando c'è. Vabbè, non credo che adesso dei grandi figoni girano per le piazzole delle autostrade italiane a bussare ai camion, dai, su. Più di quanti tu pensi, a parte che io non è che aspetto che mi bussano, io quando mi fermo solitamente sono a casa la sera e dopo poi vado a casa, lo racconto al mio compagno un attimino. Vedi, Parenzo, che rapporto aperto. Signor Franco da Parma, camionista gay, ha un rapporto talmente aperto con il suo compagno che ogni tanto si fa qualcuno che passa da lì e bussa al suo camion. Dopo 25 anni siamo aspetta Franco, dai. Resta lì, aspetta. Chiesa. Poste Mobile. Se tu dici dopo 25 anni servono pure queste cose per ravvivare una... Ma assolutamente sì, io torno innamorato più che mai quando vado a casa che racconto questa cosa. Qui siamo veramente ma no, ma va bene tutto, ma non fatela passare come una roba necessaria e normale. È assolutamente normale. Va bene, ma dai, da 25 anni Raimondo e Sandra, voglio dire, cosa c'è più da vedere? Ci si ama la follia, si ravviva tutto quando si raccontano queste cose, oppure quando si fanno insieme, che si invece di andare insieme. Fate insieme, mandatevi le foto del suo compagno che sta con l'altro. Ma che sia insieme o non insieme non ha assolutamente importanza. Poi dipende come uno imposta il rapporto, Arrenditi. Non è che lo facciamo, ma io mi arrendo, ma non potete convincermi. Abbiamo sempre parlato. E tra l'altro, sai qual è la strana cosa da Vizzerman? Io sono completamente ateo e ho un compagno estremamente religioso. E mi fa praticare perché io la domenica devo andare a messa con lui. Praticante cattolico, va bene. Omosessuale, sì, assolutamente amico mio. Vabbè, Franco. Ciao, caro. Ciao. Luca Belluno, vai. Luca? Sì, pronto? Forza, vai, forza. Ciao Cristiani, ciao Panetto. Niente, io volevo solamente fare un piccolo intervento in merito a Salvini, che è sempre dappertutto, come è per forza che si fomenta questa questa guerra fra poveri, queste cose qua. Pronto? Gino? Pronto? Gino? Sì? Scusami, sì? Sono la Zanzara qua, Cruciani, ciao. Mi dica. No, ma scusa, ma veramente tu hai dato della, a mia ancora madre? Eh? Dai, su, io ho messo il condizionale. Se sì? Ti ha insegnato così, se, sì, allora che cos'è una troia? Beh, ho capito, amico, sì, mio, ma adesso è normale, guarda, sì, guarda, abbiamo fatto, sì, abbiamo fatto, ho messo il condizionale. No, sì, vabbè, hai detto vabbè, sì. No, non ho detto che è. Ho detto è incazzata come una come una bestia. Aspetta, senti, senti, mamma. Giuseppe, chi è questo cazzone assurdo? No, mamma, stai tranquilla, fai la voce normale. Va bene. Fai la voce, adesso parlo con sua mamma. Parlo, sì, con è sua, certo, mamma, con mia madre. Io non, sì, posso, sì, sì, va bene, va bene. Tollerare questo. Come, signora? Si permette? Gino, signora, lei è un maleducato. Sì, sì, va bene, io, signora. Ho educato, signora, mio figlio nelle migliori scuole. Lei non si deve permettere, ha capito? Signora. Mamma, stai calma, mamma. Gino. No. Signora. Giuseppe, perché fai parlare queste persone? Ho capito, mamma, non è colpa mia, dai, no, su. C'è ragione, mamma, anni, ma ho capito, ma avete la stessa età, praticamente gli ha dato della troia. Scusa, abbi pazienza. No, momento. Ma gli hai dato della troia? Questi termini, io non posso tollerare questo. Mamma, stai tranquilla, dai. Ma se le ha insegnato cos'è una troia? Se le ha insegnato. Ma ok, adesso tutte, ti stai tirando indietro perché te la fai sotto davanti a mia madre. No, un momento. Si ascolti la registrazione. Io ho insegnato mio figlio ad essere ricco. Si ascolti la registrazione. No, ma sai, ascolta mia madre quello che ti dice, poi chiudiamo sta farsa. Ha insistito lei per intervenire, io che devo fare? Certo, avanti. Certo, come no? Allora, ascoltala. Io ho insegnato l'educazione a mio figlio, ho insegnato a mio figlio ad essere libero. A pensare liberamente, ha capito? Signora, permette che posso parlare con lei? No, però ha ragione, non si fanno parlare. Signora, persona, posso parlare con sì, lei? Sì, sì, parla, lei parla. Non può parlare, allora, signora, posso parlare con lei? Ho capito, signora, amico mio, gli hai dato della troia a mia madre, abbi pazienza, signora, dai. Posso parlare? Dai, parla, forza. Allora, io intendo la libertà nel rispetto degli altri. La intendo in questa maniera, e quello di mostrare un culo fuori, io credo che può ledere anche la sensibilità di una persona che guarda che queste persone. Ma c'è bisogno di dare della troia a una signora? Cioè a una signora. E allora chiedi scusa. Sì. Va bene, se la signora si ritiene offesa, io chiedo scusa. Ok. Non sono solo offesa, sono peggio che offesa. Signora, senta, abbi pazienza, ma lei intende la libertà di parlare in quella maniera, di trattare certi temi, e che società facciamo parlando sempre in questa maniera? Mi scusi, signora. Signora, io nella mia vita ho sempre cercato di costruire e di essere educato e rispettare gli altri. Ma che c'entra? Scusi, signora, io non voglio fare adesso, scusi, abbi pazienza. Io sono nonno, ho dei nipotini, lei non crederà mica che i miei nipotini mi metto a parlare di culi e di queste cose qui. Ho capito, ma hai dato della troia a mia madre, questa si è incazzata, mamma, basta adesso, basta questa farsa, Gino, mi avete rotto i coglioni, dai, no, non mia madre, scusa, abbi pazienza, chiedi scusa umilmente. Quello che dice lei è tutto ammissibile, chiedi scusa. Quello che dicono gli altri, chiedi scusa. Io l'ho già fatto alla signora. Benissimo, ciao. Spettacolare. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. La Zanzara. Siamo al top, siamo veramente al top. Allora, eravamo con Luca, mi sembra, no? Luca Belluno, vai Luca. Luca? Cruciani, Pareto, ciao. Volevo solamente dare un consiglio a Salvini, che è il guru del momento dei più problemi dell'Italia, che è l'immigrazione, i profughi. Vabbè, allora? Volevo dirgli, ma visto che vuole legalizzare la prostituzione, no? Faccio una telefonatina nei vari paesi dove hanno legalizzato la marijuana. Così tutti quanti albanesi che portano le porcherie, i cose, tutti lì? Albanesi, marocchini, vengono eliminati naturalmente. Perché non fa sta roba qua che è un'ipocrisia tenere la canapa illegale? No, ma anche secondo me, può darsi pure che lo cominciamo a far diventare l'Italia come il Colorado. Ma anche come l'Uruguay, se presente. O come l'Uruguay, ma io sono favorevolissimo, figuriamoci, sono favorevolissimo a trasformare l'Italia in un grandissimo. Purtroppo non si farà mai, è così. Ma lo sa quante tasse ha incassato il Colorado dalla legalizzazione della marijuana? Allora, ragazzi, tantissimi milioni di euro, ma non so perché questa politica, probabilmente i referenti mafiosi dei vari politici non hanno interesse per fare questa cosa. Cioè, ma questo non lo so, può darsi che sia così. Comunque il Colorado ha incassato un sacco di quattrini da questa vicenda qua. Cioè, sì. E questa è la cosa fondamentale. Non credo che, come dire, la cosa abbia provocato danni pazzeschi alla salute degli abitanti del Colorado, a quelli che vanno lì, che liberamente fumano la marijuana, cosa che fumerebbero lo stesso anche con i divieti. Lo stesso, ma qui fumano porcherie perché la tagliano per vendere, qui è tutto. Niente, solamente con i soldi di quelle tasse potremmo fare una politica di accoglimento dei immigrati o altrimenti di cittadinanza. Va bene, ciao, andiamo a Genova, Alessandro, vai. Sì, ciao Parenzo, ciao Cruci. Semplicemente volevo fare... Vai Alessandro, pronto? Vai, forza! Perché non sento il ritorno, scusa. No, ma io noi non sentiamo proprio, vai. Mi senti? Sì, ti sento, dimmi, vai. Sì, volevo dire questa Parenzo, come si fa a difendere un Pisapia? Sinceramente questo è un paese dove la politica proprio non decide nulla. Anche io da cittadino ringrazio la persona che parla, ringrazio Barisoni, no, però Alessandro, scusa, adesso andiamo alla... Ah, tu dici perché ha attaccato la giornalista di Sky. Infatti è indifendibile su questo, è assolutamente indifendibile. Perché la giornalista di Sky insisteva nel dirgli: guardi, che comunque resta una situazione di disagio, perché lui diceva: no, abbiamo reso la stazione centrale di Milano una roba pulita, eccetera. Quindi, sì, però avete spostato il problema. Dice: perché non se li porta a casa sua Sky gli immigrati? Ma che cazzo c'entra? Scusa. Vabbè, Alessandro, ciao. Se noi diciamo di, voi rispondete vino. Di? Vino! Di? Vino! Se noi diciamo elo, voi rispondete im. Elo? Im! Elo? Im! Mai al mondo verrà la fine, come sempre continuerà. Mai al mondo verrà la fine. Parenzo, fai silenzio, perché qui si è avverata... No, zitto, voglio che stai zitto. Si è avverata una profezia, cioè quello che aveva detto il divino sulla caduta di quello che lui chiama il duce alla frutta, cioè Renzi, beh, insomma, comincia ad avverarsi. E credo che il divino ci abbia azzeccato anche sulla vicenda veneziana, se non sbaglio. Divino, buonasera. Vi salutiamo e diciamo da Forte dei Marmi, amatissimi figli, come... No, Divino, non si sente bene il telefono. La dobbiamo richiamare, Divino. Divino, la dobbiamo richiamare. Manco telefonare, sa il Divino. Vai al mondo verrà la fine. Questo sa manco telefonare. Renzo da Bologna, vai Renzo. Manco telefonare, sa questo. Pronto? Divinare. Vai. Oh, finalmente, dopo un'ora di attesa, riesco a parlare. Speriamo. Dimmi, vai. Allora, volevo dirvi che mi sono assorbito. Le cazzate, tra virgolette, che ha detto la Santa, che è comodo parlare quando si è ricchi e poi non si sa come. Gli stipendi italiani 1200 euro? Prova a campare lei con 1200 euro al mese. Primo. Secondo, vorrei dire che allora gli immigrati che stanno sulle balle a tutti, tra parentesi, bisognerebbe che gli africani venissero qua col macete e ci facessero fuori tutti. Perché? Perché noi siamo andati là, abbiamo usurpato, abbiamo rubato, abbiamo saccheggiato tutto. Poi volevo dire un'altra cosa anche. Tu, Cruciani, che ti ho visto anche ti fare Inter, questi bei campioni. No, veramente non mi risulta. Non mi risulta. Strapagati. Vabbè Renzo, ma che vuoi? Non ho capito. Allora dovevo avere detto che noi... Volevo dire che noi qui sono tutti un branco di ladri, quindi noi branco di ladri, sì, poi? Abbiamo bisogno di esempi. Per esempio Mujica, l'ex presidente dell'Uruguay, quelle sono persone con 800 euro al mese. Alla faccia del nostro ex presidente che prende 680 euro al giorno. Chiaro? Allora qui fa bene quel... Chi è quel signore che ha detto che ha paura dei poveri? Alla grande, perché qua... ci verrà la rivoluzione, perché poi i giovani sono più così stupidi, eh. Vabbè, allora Renzo, poi? Ci vorrà la rivoluzione, quindi i ricchi, voi siete più ricchi, ma smettiamola, dove ve le fa andare? Tanto vorrei ricordare che su questa terra siamo di passaggio, la vita non è eterna e bisognerebbe essere un pochino più umili e meno cattivi, tra parentesi. Tu hai messo insieme 40 cose incomprensibili, ciao. Se noi diciamo di, voi rispondete vino. Di? Vino! Di? Vino! Se noi diciamo e ci riproviamo, di vino? Siamo sempre a Forte dei Marmi. Eccoci qui. Senta, di vino, prima la benedizione però, di vino. Cazzo, altrimenti se, marmi se non c'è la benedizione non sto bene io. Com'era? Ma la benedizione certamente la elargiremo al termine del nostro dire, ormai, sì, visto che la benedizione o è nell'incipit o è No, ma l'incipit, rivolevo l'incipit, scusa, siccome... Ma come si fa a rifare un incipit? Sì, ma come si fa? Ma dai, ma che domande fai? Ma come si fa? Ma come fai a chiedere al maestro di rifare questo cazzo di incipit? Nel senso, chiamateci solo quando rifarete dell'immondo pagliaccio. A 10 No, aspetta, fermo. Vive la France. Aspetta, vive la France. Aspetta, divino. Divino, aspetta, ci sei? Divino? Divino? Vive la France. Vabbè, devi sta zitto un attimo, no? Abbi pazienza, dai. Scusami, sì, scusami. Dai, su. La benedizione di divino. Viva la France. Dai, su. Giancarlo da Prato, dai. Cosa mi tocca sentire? Giancarlo, vai! Sì, buonasera, mi sente? Sì, dimmi. Allora, volevo portare la mia testimonianza riguardo alla scabbia, al problema scabbia. Mia figlia prende il treno da Prato a Firenze per andare all'università e un paio di mesi fa si è mischiata la scabbia. Certificato dermatologo, 250 euro tra medicine e visita e arrivederci. Comunque il problema esiste, questo volevo testimoniare. Ma come l'ha preso? Aspetta. E il... secondo la, la... Aspetta un secondo. Questa trasmissione è così, garibaldina. David, ma perché hai fatto scappare il divino stasera? No, adesso, ma hai dai, fatto su. Scappare il divino. Dai, su. Hai fatto? Ma che no, cos'è? Ma quello si incassa. Hai fatto scappare il divino. Siano con te. Qualora non riusciti a stabilire un contatto telefonico con la nostra persona terrena, usando questo numero, invia una email alla cancelleria. Ma quella che avrai altri numeri di telefono utilizzabili con facilità. Invia una email a info@diginotelma.com oppure evaperez@yahoo.it. Ma è sempre lui. Ulteriori informazioni nel sacro sito www.diginotelma.com. Ma fare sacro sito? Mamma, anche no. Dopo il segnale Im, Elo, Elo. Vabbè, dai, proviamo da un numero non scoperto, cioè non coperto. Vai, Giancarlo, dimmi. Ma perché sei arrabbiato? Ti stavo dicendo, secondo la dermatologa c'è un aumento esponenziale di questo problema su. Ma a causa degli immigrati? Questo non si sa, diciamo. Non si sa. Allora, scusi, ma io non è che c'è gente che prende la scabbia di... È incredibile. Il problema è che io non è... assolutamente sono razzista. Poi ci stanno tanti di questi immigrati che frequentano i treni, i vagoni. Che dici? Sul treno si può prendere anche la scabbia, vabbè. Comunque, mia figlia l'ha presa sul treno. 250 perché... euro, pomate, eccetera, e via. Abbiamo fatto tutti quanti la terapia per sicurezza, diciamo, tutta la famiglia, e si è risolto il problema, diciamo, però lì l'ha presa. Adesso da chi chiaramente non posso dirlo, però che ci sia questo problema di scabbia è vero, insomma, perché per esperienza, diciamo, l'ho passato. Va bene, Giulio da Milano, vai. Buonasera. Ma io ho sentito bene che questo signore prima ha detto che gli immigrati dovrebbero ammazzarci tutti? Ma quello di prima, sì. Ha cioè, detto... Ma lei come giudica una persona del genere? Vabbè, ma come devo giudicare? Cioè, Ma diceva delle frasi sconnesse, dai, su. Con dei connazionali del genere per forza ci danno degli idioti all'estero. Io abito in Svizzera e dicono, cazzo, voi avete i comunisti sulla vostra rovina. c'è gente che vuole male al proprio paese, che si augura che gli stranieri vengano a ammazzarci. Ma ci rendiamo conto? Vabbè, ma questo è un mezzo... uscire dalla crisi, dai. Vabbè, ma questo è un mezzo matto, dai, su, cioè... Ma poi volevo dire, allora... Aspetta. Vabbè, ma dai, Divino, rispondi, su. Non mica sei arrabbiato. Ma sì, si è arrabbiato con te, perché ogni volta va a finire a bordello, dai. Che le stelle siano con te. Ma adesso... Qualora non riuscissi a stabilire un contatto telefonico con la nostra persona terrena... Con la nostra persona terrena. Questo numero, invia una email alla cancelleria. Ma sicuramente la mando io nemmeno la cancelleria. Numeri di telefono utilizzabili con facilità. Alla cancelleria del Divino. Va bene, Giulio, allora... No, volevo dire, poi riguardo al governo e riguardo a quelle persone che dicono che Salvini sbaglia, io dico, Salvini la fa un po' lunga sulla storia degli immigrati, è vero, però su, di base il concetto è giusto, cioè se queste persone danno del razzista a Salvini, mi devono spiegare con dati certi alla mano come l'Italia può accogliere tutti gli immigrati del mondo. Se me lo dimostrano hanno ragione loro, altrimenti sono degli emeriti imbecilli che sono degli irresponsabili e hanno una mentalità criminale, perché se entrano tutti gli immigrati l'Italia va alla rovina. Vabbè, ho capito, Jenny, ho capito, loro. Jenny da Lecce, vai, Jenny. Buonasera, Cruciani. Dimmi. Un paese ricco e nobile come l'Italia ha paura di quattro marocchini pieni di scabbia. Cioè? Stiamo tornando nel Medioevo, stiamo tornando. Cioè non dovremmo avere paura di questi qua, dice lei? No, vanno curati, come tutte le malattie, è una malattia che si cura, quindi... Cioè lei dice diffondere curati. La paura della scabbia, sì, in giro? Sì, siamo arrivati nel Medioevo, quando c'erano gli untori, no? Ah. Cioè non è degno di un paese civile quando qualcuno, magari un dirigente politico... Non è degno, cioè io mi meraviglio di Salvini che... un pochettino lo stimavo, no? Da meridionale, però dico, quando va... Cioè lei dice, vuole mettere solamente paura alla gente per motivi elettorali? Sì, esatto. Va bene, Rita da Roma, per la prima volta sento però in molti ascoltatori delle critiche su questa cosa della scabbia. Interessante, cioè... infatti. Molto Rita interessante. Da Roma, Rita. Sta cambiando il vento. Pronto, buonasera Cruciani, mi dico in alta voce, ma sono Rauca. Dimmi, allora che cazzo volevo fare? Chiedere una cosa. Volevo ospitare nella mia casa due, come li chiamate voi, immigrati, profughi. Ma come mai vuole ospitare? Perché no, perché voglio, come sono sola, ringraziando Dio, insomma, posso ancora. Che carina, vero? E avevo voglia di due persone, in fondo, che io ho una figlia che non sta molto bene. Scusi, però avevo voglia, mi dica. Ma lei ha sbagliato forse trasmissione, per come la seguo? No, no, lei ha spazio? Ha spazio a casa? Sì. Cioè quante stanze ha? Quattro. Quattro stanze da letto. Ma dove abita a Roma? No, diciamo sono il salone, la cucina, poi un'altra stanza, ma altre due stanze, diciamo, un po' più staccate, poco, però divise da un corridoio, insomma, sì, una certa autonomia di movimento. Cioè vorresti ospitare due profughi? Vedi che esistono due profughi. Sì, due persone. Due persone. Due persone. Mettiamo in collegamento la signora Rita con chi di dovere. Cioè, voglio ospitare. Sì, non so se ho sbagliato trasmissione, però no, anzi. Trattate molto. No, perché? Ha fatto benissimo a chiamare. Ma qua. Perché dovrebbe avere sbagliato? Chi voleva chiamare? Dai, scusi, toni, Rita. Diciamo. No, siccome io sono tornata dall'Olanda ieri, perché ho una figlia a Rotterdam, e volevo chiamarvi non appena tornata. Allora ho provato prima di partire. Ecco, non so che cosa devo fare, quale prassi devo seguire. Che ne so io, signora Rita, poi adesso le sapremo dire, va. Adesso cioè... se mi dai il numero della signora ci penso io a mettermi in contatto con l'associazione che si occupa di questo. Ma come devono essere questi qua, giovani, vecchi, come devono essere? Insomma, non giovani, ecco, sono bene o male della mia età, se può essere anche una mamma e un figlio sarebbe ancora meglio. Vabbè. C'è un bambino. Vabbè, vediamo che cosa possiamo fare, Ciao Rita, ci sentiamo domani ragazzi, 18:30, ciao. Lei cos'è nato? In un cortile oppure è nato da una madre che le ha insegnato qualche cosa? Sua madre che cosa le ha insegnato da piccolino? Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, lo so, alle 8, lo dica a voce alta.